America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Barack Obama presenterà questa mattina il suo bilancio per l'anno fiscale 2015-2016 e cercherà di proporre delle misure soprattutto a vantaggio della classe media, e domani ne parleremo più approfonditamente quando avremo ascoltato tutte le proposte del Presidente, anche perché da ieri abbiamo una notizia, non da poco: la finale del Super Bowl con la vittoria del New England, dei Patriots contro i Seahawks. Sentiamo. That sound you hear is the record book being completely torn up because Brady and Belichick have imprinted their names in permanent marker. Ecco, direi che il tono del newscaster riflette quello che è stata la partita. C'è stata tensione, passione e suspense, zuffe, colpi di scena, insomma abbiamo avuto tutto. Questo stadio dell'Università di Phoenix a Glendale in Arizona, dove si è giocato il trofeo Vince Lombardi, appunto la grande finale del football americano, vinta, come vi ho detto, sul filo di lana per la quarta volta dai Patriots, punteggio 28-24. Una partita avvincente, da vera grande finale, e fin dall'inizio, metà tempo, si chiude a sorpresa in pareggio 14 pari con i Seahawks. Pensate che recuperano negli ultimi 2 secondi, e dopodiché che passano in vantaggio e riescono ad andare avanti fino a quota 24 nel terzo tempo. Una partita molto equilibrata, avvincente, con momenti imprevedibili, e alla fine si è giocata negli ultimi secondi, negli ultimi 20 secondi, per un errore secondo me di valutazione di Russell Wilson, che è il quarterback, il regista dei Seahawks. Pensate, a un metro dalla meta, appunto a 20 secondi dalla fine della partita, con un altro tentativo in riserva, invece di lanciare il colosso Marshawn Lynch nella mischia, che poi questo Lynch è veramente una massa di muscoli, riesce a sfondare qualunque barriera, ha voluto sorprendere gli avversari con un passaggio al receiver Riccardo Lockett. Il passaggio è stato intercettato, c'è stato un guizzo del giovane Malcolm Butler, e la partita praticamente è finita lì. Peccato, perché i Seahawks erano davvero a un passo dalla vittoria. Pensate che hanno vinto il loro primo torneo l'anno scorso. How do you not run the ball on the 1 yard line? How do you not run the ball with Marshawn Lynch? We talk about the man all week and you don't call his name on the 1 yard line? Ecco, voglio darvi soltanto un altro esempio di quanto piena di suspense è stata questa partita, perché quando sembrava che i Seahawks non ce la facessero, siamo ormai alla fine, siamo ormai letteralmente a un minuto dalla fine, e che succede? Che c'è un passaggio lungo di Wilson che è per Lynch. E che succede? Che lo stesso Butler, quello che aveva intercettato il passaggio finale, riesce a intercettare anche questo passaggio. Cadono entrambi per terra, la palla resta per aria, poi rimbalza sul corpo di Butler, poi sul ginocchio di Lynch. Lynch riesce ad avere, come dire, un guizzo improvviso, con un colpo di reni si rialza e riacchiappa al volo la palla che resta in gioco. Ecco, è in quel momento che i Seahawks hanno ripreso la partita in mano. Onore comunque ai Patriot, che ieri sera hanno fatto storia perché hanno accumulato ogni record possibile. Tom Brady, leggendario, grande regista, è stato il migliore giocatore in campo, ma quel che più conta per lui è arrivato l'Olimpo, l'ingresso nell'Olimpo dei giocatori di football. A 37 anni, con poche partite ancora da giocare, ha raggiunto Joe Montana e Terry Bradshaw, che sono gli unici due registi ad aver vinto 4 Super Bowl nella loro carriera. Lui lo ha fatto ieri sera. Beautiful for spacious skies, for amber ways of grain, for purple mountain majesty. Ma il Super Bowl non è solo una partita di football, è una grande festa americana che parte con una parata allo stadio, con le bande, le canzoni patriottiche, e come appunto America the Beautiful che vi ho fatto sentire, con l'inno americano, con i militari che rappresentano le 4 armi degli Stati Uniti d'America, che sono lì in posa, allineati con le loro bandiere. C'è stata una pattuglia acrobatica che ha volato sopra lo stadio in formazione perfetta. Sui grandi schermi c'erano le immagini del paese, dai Grand Canyon dell'Arizona, bellissimi, interminabili, alle grandi città americane illuminate di notte. Ecco, e anche questo Super Bowl, una grande, grande sagra alimentare, si consuma e si beve di tutto, centinaia di milioni di porzioni. Il giro d'affari complessivo, tutto incluso, di questo Super Bowl è valutato, pensate, in 14 miliardi di dollari. E poi lo spettacolo di metà tempo. Katy Perry, devo dire, ho usato il termine super creativo, lo riaffermo. Pensate, nessuno su Twitter si è lamentato. Katy Perry, tra l'altro, ha il maggior numero di follower su Twitter, 64 milioni di persone. Lo spettacolo parte con lei che cavalca un leone meccanico enorme con una gran quantità di specchi, come tanti rombi messi insieme, e finisce di nuovo con Kathy che letteralmente vola appoggiata su una stella cometa e canta i suoi pezzi forti, da Tiger a Fireworks. Hi, I'm Kim. Each month millions of gigs of unused data are taken back by wireless companies. Tragic. Infine la pubblicità, una ubriacatura da pubblicità, pensate, 4 milioni di dollari per trasmettere 30 secondi di pubblicità. Vorrei raccontarvi proprio quello della 500, perché è stata una sorpresa, è stato nuovo e credo che sia la prima volta che una 500 appare in un Super Bowl. La conferma del perseguimento di un'immagine sexy per la 500 in America, che finora ha funzionato molto bene. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ecco, direi che possiamo rifarci a questo grande spettacolo che ci ha dato la Perry con l'ultima canzone. E mentre lei vola per lo stadio, partono questi straordinari fuochi d'artificio e la canzone, appunto, è Fireworks di Katy Perry. È tutto, Mario Platero, un po' raffreddato come sentite, mi spiace per questa voce, vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!